Buon pomeriggio a tutte e a tutti, la vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa e come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria c'è Attica Blues, la scorsa puntata ci siamo focalizzati sulle uscite di questa prima parte del 2020 di vari generi musicali, soprattutto del reggae, questa volta ci focalizzeremo sulle uscite 2020 del jazz. Sì, iniziamo con un bel quartetto che si è riunito dopo tanti anni. Loro erano quattro giovani leoni negli anni 90 e adesso sono ancora fra i migliori musicisti di jazz della loro generazione. Parliamo di Joshua Redman al sax tenore, Brad Meldau al piano, Christian McBride al contrabbasso e Brian Blade alla batteria. L'album uscirà il prossimo 19 giugno e si intitolerà Round Again per la No Such Records, ma è già uscito un primo singolo che ne anticipa appunto la pubblicazione del disco. Questa è Right Back Round Again. Caldo negli States a seguito dell'omicidio di George Floyd, un po' tutto il paese in fiamme, sono varie le rivolte e vari gli interventi addirittura di proporre gli antifa come dei terroristi, comunque il fatto sta che Minneapolis è in fiamme come tante altre città e noi abbiamo scelto per voi un disco dedicato a quattro paladini dei diritti civili. Sì, infatti il 7 febbraio è uscito un album che è un sentito omaggio al movimento per i diritti civili degli anni 60, e questo disco di Christian McBride si intitola Il mondo rivisitato, appunto un ritratto in musica di quattro icone che sono appunto Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks e Muhammad Ali. Un disco con la sua big band che aveva già vinto due Grammy nel 2011 e nel 2017. Questa invece è una registrazione più teatrale. Questo disco abbiamo scelto il brano che tributa Muhammad Ali, anzi un evento particolare, quell'evento in Zaire nel 1974, quel grande incontro che andò in mondo visione, Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle. Jungle, you showed us the way. Rumble, young man, rumble. Head on. Che ci stiamo ascoltando è Charles Lloyd dal disco uscito il 28 febbraio per la Blue Note 8 Kindred Spirits. La traccia che stiamo ascoltando è Requiem, un titolo particolarmente allegro che a me, per esempio, mi ha fatto pensare a Mozart. Thank you. nel 2018 il sassofonista e compositore Charles Lloyd ha celebrato il suo 80° compleanno con una serie di spettacoli in giro per il mondo. E accompagnare Charles Lloyd c'era una band di giovani ma talentuosissimi musicisti come Eric Harland alla batteria, il pianista Gerard Clayton, Ruben Rogers al basso e il chitarrista Julian Lange. Questa lunghissima tournée che ha toccato anche l'Italia, Roma, in quell'estate, è stato scelto il concerto realizzato il 15 marzo al Libero Theater di Santa Barbara. E poi anche un'edizione particolare di questo disco uscito lo scorso 28 febbraio include 3 LP, 2 compact disc, un DVD dell'intera performance e anche un enorme libro a copertina rigida di ben 96 pagine. Thank you. adesso passiamo a Without Deception, il brano di Kenny Barrow, Jonathan Blake e Dave Holland. Cinque anni dopo la loro ultima collaborazione, il pianista Kenny Barron e il contrabbassista Dave Holland si riuniscono per questo elegante album uscito lo scorso 6 marzo per la Dare to Records. E la collaborazione fra questi due splendidi musicisti risale a decenni prima, almeno fin dalla metà degli anni Ottanta. E a loro, per l'uscita di questo album, si unisce il batterista Jonathan Blake a formare questo splendido trio. Questa è Without Deception, il brano scritto da Kenny Barron, che dà anche il titolo all'intero album. We'll be right back. vi stiamo facendo ascoltare brani lunghi in questa puntata di Attica Blues e li stiamo mettendo per intero. Il prossimo è di Dave Douglas, da un lavoro uscito il 1 maggio per la Greenleaf Music, Dizzy Atmosphere, Dizzy Gillespie at Zero Gravity. Un omaggio ovviamente al grande Dizzy, il brano è suo, Picking the Cabbage. Thank you. Passiamo così a un brano cantato, un brano di Pat Metheny con la splendida voce di Michelle Disionzelo. Il brano si chiama This Place e dà il nome all'album, uscita per la Non Such Records il 21 febbraio di quest'anno. Questo suo nuovo ambizioso lavoro, il chitarrista americano si affida alla super formazione con cui ormai stabilmente collabora dal 2010. E parliamo del pianista britannico Guillaume Simcock, la bassista malese Linda May Ann Oh, il batterista messicano Antonio Sanchez. E per questo lavoro si è anche rivolto alla Hollywood Symphony Orchestra, diretta da Joel McNeil. Adesso passiamo a una registrazione storica del 1975, ma uscita su disco lo scorso 20 marzo. Stiamo parlando di Live in Paris, Lost Oft Recordings, il live catturato del gruppo di Pharoah Sanders. Il brano che abbiamo scelto è quello di apertura di questo splendido concerto, Love is Here, proprio a firma del grande compositore e sassofonista americano. Thank you. stiamo ascoltando è uscito lo scorso 13 marzo per la Impulse, un brano ipnotico da un album con un nome emblematico, We Are Sent Here by History. Anche il nome del brano è particolare, Till the Freedom Comes Home, Shabaka and the Ancestors. Di suoni Nyabingi e free jazz per questa terza formazione portata alla Impulse dal sassofonista Shabaka Hutchings, dopo le sue due formazioni precedenti Comet is Coming e Son of Kemet. Shabaka inglese di Londra, classe 1984, è qui accompagnato da un sestetto formato da tutti musicisti sudafricani, e anche per la realizzazione e la registrazione di questo album il gruppo si è recato negli studi di Johannesburg e Cape Town. Anche per questo giovedì siamo arrivati quasi al termine, ci rimane solamente il tempo per un ultimo brano. Ma vi ricordiamo che se vi state sintonizzando solamente adesso, più in generale se volete riascoltare le monografie di Attica Blues, potete andare sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. Trovarci è facile, basta andare a palinsesto giovedì pomeriggio e tra le varie trasmissioni ci siamo anche noi. Carichiamo anche vari contenuti multimediali, e foto, spezzoni di concerti, video, audio. Eh sì, troverete tutto ciò nelle nostre pagine social, Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram, e vi segnaliamo anche la ricchissima playlist che invece è presente su Spotify. In tutti i casi basta cercare Attica Blues. The space for every part of the music. World is raw, like I said. I got so much in my head. Rap on the mic, made of lead. No drugs are dead in my head. Bustin', I freed all the kids. Auction, I'm placing my bed. Quella che ci stiamo ascoltando è una combo molto speciale tra Archie Shepp e suo nipote Ro Poetic. Era da tempo che gli chiedeva di poter fare qualcosa sulla sua musica e finalmente ci è cascato. Sì, Archie Shepp ha da sempre cercato di illuminare l'influenza e l'evoluzione della diaspora africana nella cultura moderna, nella musica, nella letteratura come poeta e drammaturgo e nell'istruzione. Lui ha insegnato per più di 30 anni all'università. E adesso questa qua è la prima incursione di Archie Shepp nell'hip hop, appunto grazie al nipote Jason Moore, detto appunto Rap Poetic, e anche al DJ e produttore Earl Davis, per un lavoro che è stato improvvisato al 100% dal vivo in studio. E allora facciamo ripartire il pezzo da capo e vi esortiamo anche ad andare a vedere il video di questa canzone, Learning to Breathe. Sì, un titolo tra l'altro quasi tristemente premonitore in queste giornate calde in America. The space for every part of the music. Is wrong, like I said, I got so much in my head. Rap on the mic, made of lead. No drugs are dead in my head. Bustin', I freed all the kids. Auction, I'm placing my bed. Black hole, the world got to dig. Welcome to side how we live. Black power, place all my niggas. Wild out the kids, fuck the crib. Learn how to breathe on my own. Your Roger that get me stoned. I rap and sing me your poem. Put legacy in my tone. Blood in the banjo, my bones. My voice, the new saxophone. This Philly shit can't be wrong. Now watch the past take the form. Frank DC, love is the norm. And North VA, world is bomb. Fuck y'all, shout out to my mom. Taught me the work was beyond. Go. Noi vi diamo come al solito appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 4 alle 5, sempre su queste frequenze 87.9 Radio Onda Rossa.